Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it. Roma, la Chiesa nella città, bentornati, qui Fabrizio Mastrofini e un cordiale saluto a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Vi ricordo la pagina Facebook della trasmissione Roma, la Chiesa nella città. Siamo all'ultimo appuntamento in compagnia con il professor Emanuele Castelli, che è docente a Basilea. Il professor Castelli è storico della Chiesa antica e filologo classico, ricercatore all'Università di Basilea nell'ambito del progetto europeo per la digitalizzazione e lo studio dei manoscritti greci del Nuovo Testamento, dai primi papiri del III secolo fino ad Erasmo e al Rinascimento. Abbiamo cominciato 4 settimane fa con il professor Castelli un percorso sulle origini cristiane a Roma, cercando di capire che cosa sappiamo della primitiva comunità e della presenza degli apostoli Pietro e Paolo. Abbiamo poi approfondito alcuni aspetti legati alle persecuzioni, correndo fino al III e IV secolo. Abbiamo parlato delle catacombe, abbiamo parlato anche delle questioni organizzative del cristianesimo e della Chiesa in quei primi decenni. Abbiamo svolto diverse puntualizzazioni di ordine liturgico e teologico per capire come sia avvenuto un passaggio decisivo, cioè quello che ha portato dalle differenti comunità di credenti in Cristo a localizzazione geografica fino, tra secondo e primi decenni del III secolo, fino alla costruzione di una vera unica comunità con regole simili e con regole condivise. Oggi dunque siamo al termine di questo percorso e proprio al termine di questo percorso vogliamo porci alcune domande di metodo storico, perché stiamo trattando una tematica storica sì, ma che coinvolge anche la fede, quindi ci sono degli aspetti e un equilibrio molto delicato da tenere presente. Ecco, proprio sull'equilibrio, cominciamo col chiedere al professor Castelli quale equilibrio a suo avviso debba esserci tra approccio storico e rispetto della fede e rispetto delle questioni di fede. No, grazie della domanda. Ecco, diciamo, noi quindi ci troviamo di fronte sempre a un binomio, no? Il problema del rapporto tra fede e scienza, in questo caso tra scienza storica. È bene sottolineare che quando parliamo di storia parliamo comunque di scienza. Ma in che senso? Oggi, diciamo così, il pubblico normalmente è molto disorientato da questo punto di vista, perché c'è un uso strumentale della storia al fine di avere una ragione politica generalmente. La storiografia, cioè la scienza storica, è nata proprio per combattere questo uso strumentale della storia, addirittura che viene fatto in mille modi, dalla soppressione stessa della memoria scritta fino a mezze verità, ambiguità, al fine di far prevalere la propria posizione. Allora, quindi dicevo, anzitutto, fede e scienza, in questo caso scienza storica, ma in che senso storia come scienza? Ecco, noi dobbiamo tenere presente che uno storico, quando lavora, ha due livelli da rispettare. Il primo è stabilire dove, come e quando un fatto è avvenuto. E su questo punto di vista la storia è pari alle scienze esatte. Dove, come e quando? E se non è possibile, non è possibile. E se si può approssimare, lo si approssima. E se si può dare un numero di questa approssimazione, si dà anche questo. Sì, la chiave è enunciare sempre, no? Il proprio punto di partenza, quello che si sa e quello che non si sa. E determinare, perché noi abbiamo delle evidenze scritte, delle evidenze archeologiche, ma poi bisogna accertarne l'autenticità, l'appartenenza storica, la provenienza, l'interpretazione del testo scritto e così via. Quindi, da questo punto di vista, lo storico è chiamato a inglobare una vasta gamma di dati, spesso frammentari, che già alle domande dove, come e quando pongono una serie di problemi. Generalmente molti si fermano però purtroppo a questo livello di dove, come e quando. Un grande filosofo della storia, Wilhelm von Humboldt, parlava di dono dei rannodamenti, cioè vedere come i dati e i fatti che sono conoscibili da questi dati si compongono in unità storica, cioè analizzarne il fatto per quello che è, capirne, individuarne le cause e vedere quali sono stati gli effetti di questo processo. Allora, definita quindi così la storia, si pone il problema della fede. Prendiamo un caso evidentissimo che fa discutere da secoli e anche negli ultimi anni, la resurrezione di Gesù. In che modo si deve porre lo storico rispetto a questo? Questo rimane un dato di fede chiarissimo. D'altra parte, dei documenti ci dicono che quando si sono recati alcuni discepoli di Gesù hanno trovato la tomba vuota. Alcuni, soprattutto quando si leggono l'introduzione al cristianesimo, questo dato viene completamente dato, lo si trascura, non lo si tocca, non lo si vuole toccare. Ma io vorrei fare una riflessione solo sulle pagine di quello che è stato forse il più grande storico degli ultimi 200 anni a questa parte, insieme a Gaetano De Sanctis, che è stato Eduard Meyer, è stato un grande storico tedesco, rettore dell'Università di Berlino agli inizi del Novecento. Lui ha fatto una delle introduzioni più lucide alla storia del cristianesimo, in cui traccia sempre nettamente di un episodio, di un fatto, le cause e gli effetti, le conseguenze. Quando lui si dedica a riflettere su che cosa è avvenuto all'indomani della morte di Gesù, lui dice che dopo tot giorni sono ritornati i discepoli a Gerusalemme ad annunziarlo risorto. Se uno legge bene il volume, presta attenzione a come lo storico sviluppa i discorsi, lui lì consapevolmente lascia un enorme vuoto. Perché? Perché se noi la resurrezione non è un fatto di cui uno può dare la prova scientifica, perché la prova scientifica è una prova da laboratorio, deve essere ripetibile. Però, se non si ammette un qualsiasi tipo di, diciamo così, di esperienza, in questo caso anche eccezionale, non c'è modo razionalmente di spiegare perché i discepoli, tutti fuggiti, tutti con la paura di essere uccisi, ovviamente, perché sono tornati tutti a Gerusalemme e con quella determinazione. Non c'è modo. L'episodio della risurrezione lui non lo tocca e storicamente, dicevo, noi non lo possiamo dimostrare. Sta di fatto che anche, diciamo, chi diciamo così, crede o non crede, da questo punto di vista rimane indifferente per il lavoro dello storico, deve prendere atto che lì manca qualcosa che ci spieghi razionalmente perché c'è stato quel cambiamento radicale di tutto il gruppo degli apostoli. Noi oggi siamo abituati a darlo per scontato che loro sono tornati, si sono ripresi, ma dobbiamo renderci conto che quello è stato un episodio tragico che ha comportato ben altro che caccia alle streghe. Quando Socrate è morto, i suoi discepoli hanno dovuto abbandonare Atene. Qui era ancora peggio perché qui l'ostilità si era creata a livelli fortissimi e conflittuali con il gruppo dirigente. Quindi, diciamo così, quando uno storico si trova di fronte a questo episodio, credente o non credente, prende atto di una lacuna, dell'impossibilità razionale di spiegare non la resurrezione, perché lì non possiamo intervenire su quello, ma dell'impossibilità di trovare una spiegazione razionale al fatto immediatamente successivo. Quando parliamo dello sviluppo del cristianesimo, parliamo di un fenomeno complesso che si allarga al bacino del Mediterraneo, che intercetta la caduta o comunque il declino e poi la caduta dell'impero romano, che entra sul tema della ricerca di senso, della ricerca di senso delle popolazioni di quei secoli lì, e quindi allora la lente dello storico si deve arricchire della lente del sociologo, della lente dello psicologo, teologo, della lente di tante altre discipline. Lei come vede questa prospettiva? Assolutamente, diciamo così che lo storico deve essere sociologo. Oggi viviamo accademicamente la nuova generazione si forma alla luce di un'impostazione di iperspecializzazione, di quella che mio collega chiama l'iperspecializzazione selvaggia, per cui si concentrano solo su un dato, poi tralasciano tutto il resto. Invece lo storico, almeno per come ci si formava in Germania 100 anni fa e anche in Italia grazie alla scuola di Belloc e di Gaetano De Santis, non è lo specialista di una singola disciplina, l'epigrafia, la papirologia, la filologia, la storia dell'arte. Fa lo sforzo di tenerle tutte quante insieme e quindi anche di tenere in considerazione aspetti di carattere sociologico. Direi che forse però oggi il problema è andato in senso opposto, cioè si è dato molta attenzione a aspetti di carattere sociologico, si sono sviluppate molte teorie di questo tipo, le evidenze che le supportano sono scarsissime alcune volte si ha l'impressione, leggendo anche libri ben noti al pubblico oggi, che chi le ha elaborate scritto senz'altro un'idea plausibile, ma non è minimamente verificata alla luce di quello che conosciamo. Quello è il dramma di oggi, che c'è una varietà di opinioni, perché qual è la differenza? Cioè, lo storico, quando fa lo storico, lui non dà opinioni, lui dà interpretazioni a partire da dati. Oggi invece si assiste a un fenomeno, soprattutto diciamo in Italia, incontrollabile di opinioni, ma scarsamente poi vincolate ai dati. Perché dico questo? Perché se torniamo al saggio famoso di Wilhelm von Humboldt che discutevo, che è stato un saggio che anche in Italia almeno una risonanza l'ha avuta, perché Benedetto Croce lo ha tradotto, lo ha commentato, ci ha scritto molto su quello. Wilhelm von Humboldt diceva che qual è la fantasia che distingue lo storico dal poeta? Perché ovviamente anche lo storico usa fantasia, perché deve fare quel dono dei rannodamenti di cui dicevo, cioè deve ricostruire una serie di fatti in sé dissolti alla luce di quel poco, per l'antichità sempre poco, che gli è rimasto. Ma qual è la differenza tra lo storico e il poeta? È che il poeta agisce davvero senza vincolo alcuno nella sua narrazione. Lo storico invece ha il vincolo del dato, ha il vincolo del dove, come e quando lui lo ha accertato, intercettato. Se manca quello, qualsiasi proposta, per quanto ammantata del genio, diventa un tentativo di colmare cose che noi non sappiamo, ma del tutto infondato. Le considerazioni che ho fatto possono essere sviluppate in vario modo, ma fanno vedere anche, diciamo, un altro problema, cioè che quando noi parliamo di fede e scienza, no? In questo caso scienza storica, questo che cosa ci dice? Che il credente non solo non trova in contrapposizione queste due realtà, la sua fede e il dato storico, ma, diciamo così, ha bisogno della scienza storica per controllare dove è la fede, dove è la superstizione e dove è addirittura l'invenzione. Noi adesso stiamo parlando di un episodio che riguarda la nascita stessa, insomma, del cristianesimo, ma io negli ultimi anni ho lavorato molto con problemi di cause dei santi, soprattutto tra 8 e 900, in particolare nel 900. Beh, lì è interessantissimo vedere come si passa davvero dalla storia al mito, su personaggi di presunta santità. Qualche volta ci sono dei dati reali, altre volte davvero, diciamo, non c'è niente. Però come si passa dalla storia al mito? E in quel caso l'ufficio dello storico, fatto secondo le regole che dicevo, aiuta a fare un discrimine, a non accogliere la superstizione e a mantenersi a un dato reale. Però, diciamo così, soprattutto la Chiesa nelle sue strutture amministrative, io ho insegnato per alcuni anni in Gregoriana, è chiamata a formare almeno gli assetti amministrativi attuali alla luce di una profonda istituzione storica, altrimenti si rischia di dire davvero superstizioni. A me piace un'espressione che aveva usato il cardinale Ratzinger, o non so se era stato già eletto come Papa Benedetto XVI, nel senso che la fede e la ragione hanno bisogno l'una dell'altra, nel caso specifico della fede, perché senza la ragione è facile che si trasformi in superstizione, esattamente come la ragione senza un dato di fede si trasforma in assolutismo dell'individuo con tutta una serie di problemi. Anche nell'ambito storico, il dato della fede deve poggiare, diciamo così, essenzialmente su un dato di carattere storico. Quello che noi possiamo imparare dalla ricostruzione delle origini cristiane, cioè illuminando, mettendo i riflettori sulle problematiche di cui noi abbiamo trattato, cosa ci possono dire sui problemi legati ad alcuni temi che sono importanti per noi oggi? Ad esempio, in una delle nostre conversazioni precedenti, lei parlava del tema della famiglia. Cosa ci possono dire le origini cristiane? Su come si trattavano allora e che insegnamento possiamo avere oggi. Oppure lei parlava in un'altra conversazione dei problemi legati al peccato, quindi cioè, si veniva battezzati, però c'era l'idea che questa seconda venuta di Cristo sarebbe arrivata e quindi dopo il battesimo puliva, per così dire, rimetteva per tutti i peccati e l'uomo non doveva più commettere peccati e invece le persone continuano a peccare. E poi durante le persecuzioni ci sono stati tanti casi di abiura e anche i concili si sono occupati di come riammettere le persone che avevano abiurato alla comunione ecclesiale. E poi anche il celibato ecclesiastico, il sacerdozio consacrato, tutto questo gruppo di problemi che ci sono, diciamo, fin dall'inizio nella Chiesa primitiva, perché ci sono nella società, perché fanno parte della vita degli esseri umani. Cosa può dire lo storico? In generale, lo studio approfondito e sistematico dei primi secoli del cristianesimo è essenziale perché permette all'uomo di oggi di vedere bene e senza preconcetti che cosa davvero è tradizione essenziale alla Chiesa e che cosa è incrostazione storica. Quello è un dato davvero, diciamo così, essenziale. Ma lei prima, tra i vari casi che richiamava la memoria, citava quello del celibato, e anche recentemente sui giornali se ne è molto discusso, ma anche lì, diciamo così, qual era la funzione davvero del sacerdote? Cioè, lo stesso Gesù, se noi leggiamo i Vangeli, non ha assolutamente dato indicazioni in questo senso. Un dato che mi colpisce sempre quando leggo i Vangeli, un dato che ha lasciato chiaramente Gesù, è che una volta impostati determinati punti, poi ha lasciato libertà alla Chiesa. L'ha lasciata davvero libera. Le tensioni che anche oggi ci sono, se accettare un celibato di tipo, un celibato ecclesiastico, in che forma, come questo incide nel ruolo, del sacerdote. Queste sono indicazioni disciplinari che la Chiesa, per una serie di ragioni, ha deciso di prendere da un punto di vista in avanti. Ma se noi torniamo neanche solo alle origini, basta vedere anche i primi secoli. Il nonno di Gregorio Magno è stato vescovo a Roma ed è suo nonno. Diciamo, cosa prendiamo atto? Che c'erano realtà anche diverse. Poi una di queste, per una serie di ragioni, ha prevalso, ma altre volte comunque ha prevalso, no, non perché l'altra fosse illegittima. E quindi, diciamo, quello che si vede quando si analizzano queste problematiche in prospettiva storica è la possibilità di depurarsi da una serie di dati, fardelli che ci portiamo appresso. A me ha colpito, ho seguito via internet l'incontro che il Papa ha avuto con il Patriarca di Mosca, ma se noi anche leggiamo il documento e le dichiarazioni che loro hanno fatto, loro a che cosa si sono appellati? A un dato storico, cioè i nostri predecessori ci hanno tramandato questa rivalità, ma è appunto in questa prospettiva storica che uno lo supera, perché se no quella rivalità rimane un fatto permanente, vigente, e ma poi confrontato col dato del Vangelo entra in netto contrasto. Qual è proprio la prospettiva storica di distanziarsi da determinati dati? Io ho la fortuna qui di lavorare con altri storici, uno in particolare, diciamo, è un grosso orientalista che è anche un grande bizantinista, il dottor Sergei Kim. Si è formato alla Sorbona, adesso è venuto qui alla Basilea dove lavoro. Noi spesso riflettiamo anche sulle ragioni della frattura che c'è stata tra ortodossi e cattolici. Beh, ma uno se lo dovesse vedere davvero in prospettiva storica, ci siamo detti io come cattolico e lui come ortodosso. Beh, ma oggi bisognerebbe dire: ma perché cosa? Per questo avete litigato? La questione, come noto, verteva sulla processione dello Spirito Santo. Ora, chi analizza, ripeto, le cose in prospettiva storica, perché anche la teologia ha bisogno della storia, se no, appunto, come dicevo, rientra in assolutismo. Chi può dare quella risposta? Come si fa a varcare la soglia della divinità? Gesù stesso, nei Vangeli, quella sfera l'ha toccata pochissimo. Che cosa ha detto? Che Dio è di un amore che eccede la ragione umana, perché l'essere umano nella sua ragione non poteva, né aveva mai pensato, i greci non avevano mai pensato che Dio, oltre a essere atto creatore, ama tanto la creatura da fare quello che ha fatto. E in questo sta un dato fondamentale della rivelazione della fede, cioè un dato che finisce con l'eccedere la ragione umana. Ma la ragione umana, una volta che lo riconosce, una volta che lo riceve, è in grado di comprenderlo. Quindi, diciamo così, nel dato della divisione tra ortodossi e cattolici, è ovvio che entriamo in un ambito che in sé è difficilmente risolvibile. Il dato qual era? E concludo. Era un dato, diciamo, di politica ecclesiastica. La storia ci permette di superarli, diciamo così, serenamente. A questo proposito, e tornando alla tematica che ci interessa, proprio quando noi entriamo in una realtà così complessa come è quella della storia dello sviluppo del cristianesimo, che coinvolge la storia dell'umanità, perché è qualcosa che si snoda per molti secoli e coinvolge prima l'Europa, poi pian piano tutto il mondo, e coinvolge la storia dell'organizzazione, ma anche la storia delle idee. Se lei dovesse dare anche dei consigli ai nostri ascoltatori per approfondire questi aspetti che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato a voce, qualche consiglio bibliografico. In Italia di manualistica ce n'è molta, però riflette, questo lo dico con la massima simpatia e cordialità ovviamente nei riguardi dei miei colleghi, riflette un dato problematico che è quello che dicevo, cioè l'iperspecializzazione, cioè ogni studioso tratta un pezzo, un pezzo, un pezzo, lasciando al lettore, che invece deve essere informato, il fardello di fare il dono dei rannodamenti, che invece è il compito eletto dello storico. Questo è un problema di carattere generale. Tra i libri più belli che io consiglierei, comunque, sono senz'altro quelli che ha scritto Manlio Simonetti sulle origini cristiane, in particolare, insomma, sul IV secolo, sulla crisi ariana. Ma ne ha scritto uno recentemente, Il Vangelo e la Storia, che è un altro libro bellissimo. Manlio Simonetti è mio maestro e ha fatto scuola, diciamo, tantissimo in Italia, ma anche all'estero. Questi sono alcuni solo dei suoi libri più belli, anche direi, diciamo, più accessibili, perché lì davvero fa sintesi di tantissimi problemi che con una costanza davvero formidabile aveva in dettaglio approfondito, analizzato, studiato, e poi ne aveva pubblicati i risultati in varie riviste scientifiche. Però lì fa la sintesi che è piacevole tanto ovviamente per l'addetto ai lavori quanto per chi si vuole informare. Quindi, se uno volesse essere informato in generale sulle grandi dinamiche teologiche del IV secolo, sull'epoca costantiniana e tutto quello che ha comportato, direi senz'altro il volume di Manlio Simonetti. Per le origini cristiane, purtroppo alcuni dei volumi che citavo in Italia non sono tradotti. Grandi sintesi noi le abbiamo. Per il secondo secolo consiglierei le opere comunque di un grande gesuita, padre Antonio Orbe, che ha fatto studi formidabili sull'agnosticismo, che è un problema di cui oggi si sente spesso parlare, ma poi a livello, diciamo, di contenuti è spesso poco chiaro che cosa si intende su gnosticismo, che tipo di fenomeno questo è stato all'interno del cristianesimo del secondo secolo. Orbe lo spiega in maniera straordinaria, lo spiega. Però Poi, se diciamo così, il nostro ascoltatore è più sensibile, è interessato ad aspetti di carattere epigrafico e archeologico, senz'altro consiglierei gli studi di due colleghi. Uno è Carlo Carletti, che è un archeologo ed epigrafista che ha insegnato molti anni all'Università di Bari, ma è stato molto attivo anche a Roma, all'Agostiniano, e poi di Vincenzo Fiocchi Nicolai, che davvero ha una conoscenza straordinaria delle catacombe cristiane. Ecco, diciamo, se io dovessi consigliare una guida per iscritto per conoscere le catacombe cristiane, consiglierei i libri di Vincenzo Fiocchi Nicolai. Ecco, lì ci troviamo di fronte a un archeologo che si è posto il problema in maniera nettissima del dove, come e quando, e poi, come fa anche Carletti, diciamo, cerca anche di ricavarne, di fare quel dono dei rannodamenti per capire che cosa questo fenomeno ci dice della storia, almeno del cristianesimo a Roma, della tarda antichità.